Luca. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sta base ci serve per far che? Per piazza quello che se vogliamo via a tutti. Che se vogliamo via a tutti? Roma. Sì, e come cazzo sappiamo Roma? Roma è grande. E noi siamo piccoli? Sappiamo che è la droga. E poi con tutto il resto. Le puttane, le estorsioni, il gioco. E il gioco è di Bernardino Scala. Fino a ieri. Ancora la banda della Magliana nella rappresentazione della fiction. Sembra impossibile che qualcosa che già è nell'immaginario come fenomeno di costume raccontato faccia parte dell'attualità. Ma fino a che punto noi siamo ancora dentro alle vicende della banda della Magliana, che ormai potrebbe, ne so, essere l'ispiratrice di un videogioco? I bambini potrebbero chiedere ai genitori: vestiamoci la banda della Magliana a carnevale, papà mi regali il vestito da Renatino De Pedis, oppure cose del genere. No, pare che invece, da quello che le cronache ci riportano, che è un capitolo mai chiuso. Ma io ricordo agli ascoltatori di Melog che già molte volte noi ospitammo una persona che diceva, raccontava come informata dei fatti, come attenta cronista, come autrice di libri, uno di questi lo cito, Mai ci fu pietà, Editori Uniti, che la banda della Magliana in realtà non era mai stata sciolta, non apparteneva ormai di fatto al mito del passato, ma era qualcosa che continuava, si era diversamente costituita. Sembrava una voce nel deserto, sembrava una povera matta che diceva delle cose senza senso. Oggi il Fatto Quotidiano gli dedica due pagine, e appunto dove viene raccontato, descritto e ribadito quello che già aveva detto tante volte, magari con i sorrisini, l'ironia dei colleghi, Angela Camuso. Angela Camuso, buongiorno. Sì, buongiorno. Una piccola precisazione: Mai ci fu pietà è stato rieditato adesso in libreria da domani a Natale con una nuova edizione. Con un capitolo dedicato proprio a Mafia Capitale, e non è più Editori Riuniti, ma è Castelvecchio. Castelvecchio. Scusami Gianluca, ma no, vabbè, giusto. Io non sono aggiornato a domani, quindi editore Castelvecchi. Tu hai fatto, cosa hai fatto? Hai fatto, io ho fatto un Istanbul. Quando l'hai adesso scritto, sì, però questo capitolo? Ho scritto un nuovo capitolo. Ma quando? Intitolato L'Imperatore Nero. L'ho scritto, è un capitolo corposo, sono 100.000 battute scritte dopo aver studiato notte e giorno, giorno e notte. Le oltre 1100 pagine di custodia cautelare che riguardano Carminati e il suo gruppo, e che sono zeppe di interessanti. Ma tu Mafia Capitale quindi già ce l'avevi nella tua memoria? Allora, guardate, io sono diversi anni che scrivo che la banda della Maia non è mai morta. Nell'ultima edizione di Mai ci fu pietà, quella appunto precedente a questa che è in uscita, avevo ampiamente dedicato pagine alle dichiarazioni di un pentito che si chiama Dario Marsiglia, il quale nel 2003 andò a raccontare alla Procura di Roma come si stesse riorganizzando la banda della Magliana, quali erano le spartizioni di territorio, le alleanze, il ruolo di Carminati, il ruolo di Diotallevi, le alleanze tra il camorrista Senese ed Enrico Nicoletti, e sostanzialmente no, ti ribadisco, non è mio parente, no, te lo spiego perché no, già ai tempi in cui Nicoletti aveva a che fare con l'università di Tor Vergata, avevo uno zio poverino oramai morto che era un genetista di fama che insegnava a Tor Vergata, già ebbe un sacco di problemi perché aveva lo stesso cognome di Nicoletti, stava Tor Vergata, quindi ogni tanto qualcuno lo guardava strano. Confermo, non sei parente di Nicoletti. A proposito di Tor Vergata, mi fai pensare, l'ho scritto anche oggi sul Fatto Quotidiano nell'articolo che ho firmato, già a quei tempi il Comune di Roma dava appalti alla banda della Magliana, perché ci fu un appalto da 434 milioni di vecchie lire che fu assegnato a Nicoletti. Era il sindaco Ugo Vetere, esatto, sindaci specchiati. Quindi Ugo Vetere, e questo appalto, insomma, questo bel affare fu sancito da un pranzo al quale partecipò Nicoletti, e parteciparono anche il rettore della facoltà e poi anche lo stesso Ugo Vetere per sua stessa ammissione. Ugo Vetere ammise di aver partecipato a quel pranzo, dicendo però che insomma che lui ovviamente non aveva. Quindi comunque è una generazione di sindaci che amava che capitava che si trovasse in occasioni pubbliche con persone che a tutti gli effetti erano propaggini, esiti meno chiari della banda della Magliana. Ferma un attimo, 800 24 00 24, vorrei che interveniste, che faceste sentire il vostro parere, corroboraste quello che noi diciamo con Angela Camuso, che oggi lascio parlare perché è una voce informata che da anni ne sono testimone perché è venuta a Melo già 2 o 3 volte, neanche nell'ironia di molti ascoltatori, dice: guardate che la banda della Magliana esiste ancora, non fa parte del passato romanzato. Nel 1981, mentre tentava di fuggire verso la Svizzera, venne quasi ucciso dalla polizia, colpito ad un occhio che gli fu enucleato. Dopo quell'episodio diceva che ogni giorno in più nella vita era solo guadagnato. Classe 1958, trapiantato a Roma, il Guercio, soprannome da strada, il Nero, nomignolo da fiction, non era stato nulla in nome del popolo italiano se non un delinquente comune. Non l'assassino del giornalista Pecorelli per volere di Andreotti, dopo una condanna in primo grado, era stato assolto definitivamente. Né un killer di debitori poco puntuale, assolto anche qui. Non un depistatore per la strage di Bologna insieme ai servizi segreti deviati, assolto come sempre. Eppure fior di pentiti lo avevano sempre dipinto come un criminale serio e pronto a tutto, stimato e temuto dalla banda della Magliana, dalle versioni di destra, dai servizi segreti. Una sola condanna seria, quella a fine anni 90, per un sodalizio legato ai videopoker. Eppure la leggenda voleva che Carminati fosse il vero 8° re criminale di Roma, unico capo al livello. Sì, poi anche su le vulgate giornalistiche rispetto a questi fatti ci sono stati molti episodi ai limiti del sorriso, qualcuno ha anche cavalcato in maniera strumentale, ripeto, quelli che vogliono dire in realtà non esiste la mafia romana, la questione della famosa katana di Carminati, tutti i giornali hanno fatto vedere uno sfilettatore di sashimi dicendo che era una katana, ma questo poco conta, poco incide, ma dimostra il fatto che in realtà nessuno è stato veramente in questi anni attento a queste vicende. Allora vediamo di capire, Angela, il pezzo sul Fatto Quotidiano oggi parla del tesoro della banda della Magliana, 200 milioni sono quelli confiscati a Carminati e soci nella questione mafia capitale, ma è 1,3 miliardi la ragnatela di affari attorno alla banda romana. Ma mi viene da pensare che in tutti questi anni sarà molto più corposo il giro di soldi che sta attorno, esatto, a queste persone. Allora, sì, innanzitutto bisogna chiedersi come mai scopriamo Mafia Capitale oggi, no? E come mai finirono in un cassetto i verbali di questo pentito, cosa è successo a Palazzo di Giustizia e cosa è successo evidentemente nelle altre sfere anche del, diciamo, sì, mi viene a pensare che ormai una persona che ammazza il socio a coltellate, per tutti ci può essere redenzione, sia diventato l'uomo simbolo della cooperazione sociale, ma per questo, tutta la Roma bene, non sì, lo so. Vabbè, questo è un discorso che poi si va ad intersecare anche con quelli che erano i tempi all'epoca in cui, voglio dire, c'era una grande apertura rispetto alla rieducazione dei detenuti e insomma uscivamo dagli anni di piombo, c'era un altro tipo di situazione, quindi Buzzi è appunto il soggetto di cui parliamo, no? Che poi è diventato il re delle coppe rosse, lui riuscì comunque ad ottenere molti consensi all'esterno, gli dedicarono addirittura a delle sue iniziative in carcere, gli dedicarono articoli su insieme i giornali, l'Unità, e, insomma, quindi voglio dire, io su questo non mi soffermerei, io mi soffermerei su Carminati e sul ruolo di Carminati diciamo all'interno della nuova banda della Magliana e soprattutto capire perché io parlo degli stessi soldi, no? Io oggi nell'articolo del Fatto scrivo che sostanzialmente i soldi di Carminati, i soldi che Carminati utilizzava fino a una settimana fa per finanziare gli appalti di Buzzi, perché ricordiamoci che il meccanismo è questo, cioè a un certo punto c'è Carminati che porta avanti Buzzi che riesce ad accaparrarsi gli appalti, ma Carminati è in società praticamente con Buzzi e Carminati finanzia gli appalti di Buzzi, per esempio l'appalto del campo di Castel Romano che è costato al Comune di Roma 1.200.000 euro, erano soldi che doveva rimborsare il Comune a Buzzi, ma Buzzi doveva investire all'inizio, doveva realizzare queste strutture, quindi aveva bisogno di capitali e questi capitali per metà racconta Buzzi un'intercettazione, glieli dà Carminati consegna a Buzzi una valigetta per quell'affare con 600.000 euro in contanti, in pezzi da scelta. Anche perché, scusami, per ottenere appalti in maniera così regolare, al di fuori delle gare tutte, considerata l'emergenza, bisogna avere un cash consistente, perché ti danno gli appalti, tu devi realizzarli i campi, certo, poi ci guadagni, ma i soldi servono. Certo, c'era un cash consistente, oltretutto Carminati riusciva a farsi dare una plusvalenza, nel senso gli appalti venivano poi gonfiati, quindi c'era anche una plusvalenza che rientrava nelle tasche di Carminati e di questo gruppo. Ma i soldi da dove venivano? All'origine i soldi da dove venivano? Allora, è questo il punto. Allora, come fa Carminati ad avere... Per questo è un grande meccanismo di riciclaggio virtuoso di soldi che ce ne sono tanti. Assolutamente. Allora, e qui dobbiamo innanzitutto partire dall'ordinanza di custodia cautelare che ci racconta come Carminati, nel periodo in cui è stato sotto indagine, quindi parliamo di anni recentissimi, dal 2011 al 2013, aveva rapporti con Michele Senese, camorrista sanguinario, già in affari con Enrico Nicoletti, il quale in questi ultimi 10-15 anni, è risaputo, ha ottenuto il monopolio dello smercio della droga sulla piazza di Roma. Ancora, Nicoletti era in affare con Ernesto Diotallevi. Ernesto Diotallevi, già luogotenente di Pippo Calò ai tempi d'oro della Banda della Magliana, colui attraverso il quale la Banda della Magliana riuscì a fare l'accordo con Cosa Nostra, che permise alla banda di importare eroina dalla Sicilia e così di avere il monopolio, no, del traffico di eroina su Roma all'epoca. Allora, fermati un attimo, ho due ascoltatori, li sentiamo un attimo, diamo la storia poi nei tratti essenziali, perché poi tanta gente si chiede come mai a Roma improvvisamente nascono grandi catene, senza fare nomi ma senza alludere a nessuno, ma è un dato di fatto, di ristoranti siciliani, di pizzerie fantastiche, perché improvvisamente si comincia a sparare alla gente per strada, una città dove accadeva molto raramente, regolamenti di conti con gente ammazzata per strada. E Angela Camuso ci sta dando alcuni elementi. Roberto, buongiorno. Ciao, guarda, intanto vi faccio i complimenti che siete l'unica radio libera che fa sentire queste porcate che ci sono. Vabbè, dai, andiamo al punto. Allora, sì, ascolta, io sono di destra, sono sempre stato di destra, ho avuto la fortuna di nascere sotto la Repubblica di Salò. Comunque, questo qui... Beh, mica tanta Martino. Fortuna, sei vecchio, se nascevi sotto... Sono vecchio, gli anni 80 era meglio. Ascolta, sono stato molto bene nella mia vita, ho fatto tanto sport, tanti gol. Adesso però io mi batto per i nostri giovani, cioè questi giovani devono avere un riferimento e qui non c'è più, questo qui non sono riferimenti, queste sono schifezze che gli fanno perdere qualsiasi principio di qualsiasi idea buona, che gliela fanno perdere. Vabbè, dei tuoi quindi ideali, quando... dei tuoi ideali, che ognuno ha i suoi ideali, nessuno si indaga sui ideali altrui, ma cosa emerge questa storiaccia qua? Oddio, non è che nessuno degli esiti della destra a cui tu ti rifai ci fa bella figura, diciamo la verità. Guarda che quelle cose qui le conosciamo, ero vicino ad Alemanno, sai, perché sono stato sempre in Alleanza Nazionale. E quindi già c'era l'area che succedano queste cose. Questi porci li ho conosciuti da vicino. E questi perché non dicevate niente? Ma tu non mi conosci. Se mi vieni a trovare, che io sarai il mio ospite, sì, ti farò vedere cosa faccio io al mio paese, nella mia città. Qual è la tua Solo città? Che insomma, Parma. Abito in un paese di montagna che tra i fiumi... Vabbè, facile, paese di montagna, non ci sono soldi da prendere. Dove non c'è più nessuno. Io prendo il 27% dei voti, però... Quanta gente ti vota? Gente? 1200 voti. C'è più gente qua sotto al supermercato a fare la spesa. Dai, adesso non è paragonabile. Però se la gente ha degli ideali, deve trasmettere ai giovani, non devi trasmettere un ideale distorto. Beh, ho capito, però non mi hai dato la risposta, non mi hai detto come mai tu che stai vicino a queste persone, vedevi le schifezze, non dicevi, camerati, dove sono gli antichi ideali? Noi stiamo qui insieme a dei mafiosi e alla gente che fa ruberie anche alle persone bisognose, perché non dicevi questo? Sì, a Finica, ad Alemandro lo dicevo. Ah, l'hai detto, però non t'hanno abbastanza ascoltato. Melog. Cronache meridiane. .800240024, la mai finita banda della Magliana continua a mostrare le sue propaggini. Tutti ridevano quando questo diceva Angela Camuso da anni, diciamo una fissata, una maniaca, perché c'ha scritto i libri sopra. In realtà oggi, volenti o nolenti, tutti devono prendere atto del fatto che esista qualcosa che assomiglia molto a un'organizzazione mafiosa di nuova generazione che è infiltrata completamente con le strutture istituzionali della capitale d'Italia. Roberto, velocemente. A Roberto è stato Antonino, c'è ancora Antonino? Sì. Antonino, sì. Ecco. Niente, io parlo dalla provincia di Salerno, insomma, a sentire queste cose, insomma, per noi del sud, insomma, è come se fosse pane quotidiano. Insomma. Come parlare di mozzarella di bufala, figurati. Sì, insomma, è apprezzabile sicuramente l'indagine, il coraggio, il giornalista. Vabbè, noi siamo nuovi a queste cose, se permette ancora un po' ci stupiamo. No, ma mica tanto nuovi, perché in effetti... Non dico noi che abitiamo a Roma. Vabbè, ma a Roma si sa, insomma, è il centro del potere, insomma, non c'è la patologia estrema della mafia, della camorra, dell'andrangheta. Sì, finora si diceva però... queste organizzazioni esistono in alcune regioni come la Calabria, la Sicilia, sì, la Campania, in parte la Puglia, non si diceva il Lazio c'era la mafia. Oggi prendiamo atto, anche se la nostra ospite lo dice. Ma Roma non ha bisogno della mafia, ha sistemi di potere più raffinati, per cui questa è la storia. Sì, ma quasi parla, sì, ma quando si comincia a parlare di gestione dell'usura con persone che spezzano le mani e di regolamenti, sì, di conti. Ma c'è sempre stato, c'è sempre stato. Quello che mi meraviglia, al di là del valore dei giornalisti, per carità, che io rispetto, insomma, no? Mi meraviglia che una certa cultura di sinistra, io sono di sinistra, non si faccia una riflessione generale, seria, politica, strutturale. Cioè, questo è un modo di governare proprio dell'Italia. Sì, ma vivere nelle terrazze, scusi, posso dire una cosa? Vivere nelle terrazze ha un costo, anche se poi magari uno ha degli affitti privilegiati perché è amico degli amici. Averci le case in campagna, in montagna, al mare costa, viaggiare costa, avere belle macchine costa, mantenere lussuose amanti costa. Quindi a quel punto l'ideologia non conta. Chiediamoci come mai il tenore di vita generale in questa città di sinistra, sì, queste cose così macroscopiche che qui anche un bambino vede, insomma, no? I rapporti di potere che ci sono in Campania, in Calabria, in cose, ma io penso anche a Roma, li vede anche non a caso è commissariato il maggior partito di sinistra romano, è commissariato il PD romano, è sottocommissario, non è una ma cosa, non c'entra il PD, è sinistra, è che l'espressione proprio culturale è il fatto che non ci sta praticamente un pensatore, gente che pensa a sinistra e che dice ma il sindacato ma dove sta? Possibile che tutti questi lei fa domande epocali, non sono nell'argomento di questa mattina. Angela Camuso, riprendiamo un attimo il discorso, vediamo di dare qualche risposta, se poi veloce, ai vari ascoltatori. Allora, quanto sì, la politica ha un colore in questa compromissione, secondo te? Ma la politica da parte sua non ha nessun colore, perché abbiamo visto che chi si fa corrompere dalla banda, anche che il nero e il rosso se li mischia assieme viene un marroncino sospetto. Colore Alemanno appunto è un ex AN e Ugo Vetere dell'epoca era PC, quindi voglio dire, questo già dimostra quanto sia vario il panorama. Io ritornerei sul discorso dei soldi della banda della Maiana, perché questa è la banda della Maiana, la nuova banda della Maiana. Allora, intendiamo banda della Maiana come la mafia romana e ragioniamo su i soldi. È corretto il termine, secondo te, Angelo? Perché c'è una grande polemica, chi come Ferrara minimizza, Buffoni, la mafia non esiste. Secondo te, mafia nel senso di organizzazione questa criminale è la organizzata? Mafia romana, la mafia romana non può essere paragonata alla mafia siciliana, perché la mafia romana non è fatta di famiglie che hanno una, non è fatta di una cupola che ha una gerarchia, è fatta da una serie di gruppi che da quasi 40 anni lavorano sempre insieme e che si scambiano affari, che si prestano per fare operazioni di vario genere, di infiltrazione dell'economia, ma anche di infiltrazione dei palazzi del potere. È un gruppo che comunque fa girare soldi della droga, che arrivano sempre dagli stessi soggetti radicati sul territorio che continuano ad avere il monopolio di questa droga, e sono i soldi questi che lasciò Renatino De Pedis alla sua morte e che già all'epoca erano stati in parte investiti in attività commerciali anche al centro di Roma. Ma De Pedis si era comprato il negozio di Enrico Coveri a Via della Vite, viveva a due passi dal Parlamento prima di essere ucciso. Mi sentite? Sì, De Pedis mi sembra che sia a questo punto sempre una figura chiave, perché De Pedis e Carminati erano i grandi amici, mi sembra aver capito. De Pedis e Carminati, più che amici, erano ovviamente, facevano parte della stessa banda. Carminati è stato condannato per la banda della Maiana, è stato condannato per l'associazione a delinquere, per appartenere a quell'associazione, quindi lui è un ex bandito della Maiana, e a un certo punto De Pedis lo attira a sé per assegnargli compiti che riguardavano l'ala finanziaria del gruppo. E quindi ricordiamoci che De Pedis aveva velleità borghese. De Pedis aveva già iniziato l'opera che Carminati ha completato e voleva portare ancora più in alto. Oggi lo dici nel tuo pezzo, uno metteva gli abiti di Caraceni, l'altro comprava le villettine a Sacrofano, come proprio diciamo il palazzinaro parvenu romano medio. C'è un'evoluzione che chiaramente bisogna anche considerare i tempi, ma il punto è che quel capitale è rimasto sempre nelle stesse mani, ed ecco perché qui c'è una mafia. Ma scusami, Gian, fammi capire, il meccanismo è questo: grandi soldi arrivano a Roma per traffico di cocaina in mano a bande criminali. Questi grandi soldi vanno investiti, che non puoi tenerteli in tasca, vengono investiti in appalti pubblici che personaggi cerniera, come appunto quelli che abbiamo citato, avevano rapporti diretti con il potere politico e si procuravano questi appalti. La cosa importante è che coloro che gestiscono questi soldi fanno sempre parte di una stessa organizzazione, che è la stessa identica da 35 anni, che si chiama Banda della Magliana, perché Senese, che si incontrava con Carminati fino all'anno scorso ed erano si comportavano come due boss alla pari, perché i carabinieri li hanno visti litigare per strada e poi mandarsi a quel paese, no? Evidentemente c'è stato una lite, quindi se Carminati litiga con un boss come Senese, evidentemente c'è un'alleanza strategica, no? E quindi c'è un rispetto reciproco. E se Senese era già un ex della banda, scusami Angelo, io devo riportarti sempre, perché i tempi sono quelli, so che tu sei appassionata nel descrivere gli organigrammi. Secondo te la giunta Marino resisterà a questa botta? Tu che hai elementi e conosci bene le connessioni, verrà fuori qualcos'altro per cui sarà non più sostenibile o comunque terrà botta? Ma io credo che bisognerà valutare in questa decisione anche l'eventuale smacco internazionale a cui verrebbe sottoposta l'Italia se il comune di Roma venisse sciolto per mafia, no? E quindi bisogna anche essere realistici rispetto a quelli. Lo so, ma secondo te ci sarebbero i presupposti? Ma secondo me i presupposti, Marino diciamo che ha una responsabilità di tipo di vigilanza, cioè nel senso che comunque è insostenibile che un sindaco non si accorga di cosa stanno combinando i consiglieri e il suo stesso segretario. Scusa, la botta finale dell'assessore Cutini, l'unica persona che nelle intercettazioni viene messa ai margini, dicono loro stessi, leviamoci dalle scatole, questa è impenetrabile, che con tanto clamore e tanta evidenza oggi si è allontanata. Questa mi sembra una scelta un po' stravagante, sicuramente un boomerang politico, ma d'altra parte Marino non è nuovo a questi boomerang politici. Il problema è che adesso siamo in un momento delicatissimo e quindi Marino non è implicato in questa vicenda, quindi diciamo che tecnicamente secondo me ci sono dei dubbi per poter affermare che questo comune va sciolto per mafia. Bisogna capire poi chi si potrebbe avvantaggiare di questo scioglimento. Consideriamo che quali sono allora gli aspetti che ancora devono venire in superficie? Tutti hanno l'impressione che al di là delle migliaia di pagine che sono state scritte, ormai circolano via email per altrettante migliaia di persone, ci siano dei punti oscuri e prima o poi verranno alla luce. Quali saranno i settori delle istituzioni, dell'economia, delle persone note che saranno lambiti ancora da questa vicenda? Bisognerà vedere cosa uscirà fuori dagli interrogatori innanzitutto, perché ci sono tantissimi personaggi coinvolti, ci sono gli anelli, i quatti non parlano, questi sa, i veri quatti stanno zitti. I capi non parlano, chi ha le più grosse responsabilità e chi ha avuto più guadagni, però potrebbero parlare gli anelli deboli della catena, i segretari, le segretarie, i commercialisti, tutti coloro che però detengono informazioni importantissime, perché pensate ai commercialisti che hanno la contabilità che è palese, anche occulta, di determinati personaggi, e quindi a quel punto si potrebbe capire i soldi, no, dove sono andati a finire, e poi ci potrebbero essere interrogatori che svelano connessioni con altri pezzi dello Stato. Allora fermiamoci un attimo. Angela Cabuso, ricordo, da domani per editore Castelvecchi, Mai ci fu pietà, il suo libro rinnovato con il nuovo capitolo scritto all'istante sulle questioni dove è andato a finire il tesoro della banda alla Magliana e le questioni di mafia romana. A domani.